Dialogo 36esimo. Raccontò Abu Huraira: un giorno qualcuno disse all'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la benvenga, o apostolo di Allah, invoca sui politeisti la maldizione di Allah. Rispose: non sono stato mandato per lanciare imprecazioni, ma come misericordia.